cos'è quest'estate di Deborah Rosciani. E buona giornata a tutti, ben ritrovati a Ma che cos'è quest'estate. Oggi riprendiamo, speriamo con regolarità, la nostra trasmissione, dopo che ricorderete nelle passate giornate abbiamo dato tantissimo spazio con tutta una serie di speciali alla cronaca, al resoconto drammatico che è arrivato dalle zone terremotate. Ci ritorneremo anche oggi su questo tema, anche se naturalmente vi proporremo anche altri argomenti nella seconda parte della trasmissione a partire dalle 9. Qualche minuto di tempo anche ad un aggiornamento alla cronaca dalle zone colpite da sisma, naturalmente lo faremo con i nostri inviati, con altri esperti, faremo un punto della situazione sullo stato dell'emergenza con la Croce Rossa e poi con alcuni amministratori per capire a questo punto tutto quello che si sta configurando per quello che riguarda la ricostruzione. Ci sono molti nomi sulle persone, le professionalità a cui i lavori dovranno essere assegnati, l'enorme polemica che vedo che sta montando sui giornali, che sta colpendo il sindaco di Amatrice Pirosi, insomma tanti argomenti da affrontare, lo faremo dalle 9. Nella prima parte invece di Ma che cos'è quest'estate, un tema che l'indispettisce molto ma piace sempre ai nostri ascoltatori, parleremo di evasione fiscale. Qualche numero sul fenomeno in questo momento, ma faremo soprattutto un punto della situazione su quello che è successo quest'estate, perché ci sono tante operazioni che sono state messe in atto dalla Guardia di Finanza. Faremo il punto sui numeri che sono stati appunto raggiunti sull'attività di aggiornamento delle Fiamme Gialle. Poi parleremo anche di un'enorme operazione che da qualche mese viene condotta a Venezia contro i bed and breakfast abusivi. E poi nell'ultima parte della trasmissione parleremo di un altro argomento che pure paradossalmente, tristemente direi, sta cominciando ad essere presente un po' troppo spesso sui giornali, perché proprio in questo fine settimana abbiamo avuto la morte di un terzo base jumper, un atleta di questi che si cimentano in questi tra virgolette sport spericolati per trovare adrenalina, per raggiungere chissà quale tipo di emozioni, ma in realtà noi abbiamo intervistato, ve lo proporremo nell'ultima parte della trasmissione, un istruttore di questi base jumper, e sono dei paracadutisti, sono degli atleti fisicamente molto preparati, molto agili e quindi in grado assolutamente di cimentarsi in questi lanci con queste cosiddette tute alari. Eppure abbiamo avuto il terzo morto, oltre alla scomparsa anche di tre alpinisti svizzeri sul Monte Rosa, per cui tanti argomenti anche oggi di cui parlare. Se volete potete commentare i temi del giorno con noi o all'800 24 00 24 per intervenire in diretta, oppure potete scriverci al 349 238 6666, leggiamo sia i vostri sms che quelli che ci raggiungono appunto nella maniera tradizionale, sia quelli che ci raggiungono WhatsApp. Su WhatsApp adesso possiamo partire. C'era la palazzina di pregio con tanto di maggiordomo e sauna dal costo di 25.000 euro alla settimana, ma anche l'ostello che ospitava 20 turisti a notte nel blitz della Guardia di Finanza e Polizia Locale contro gli affitti abusivi a Venezia. La palazzina nel centro storico della città era pubblicizzata su diversi siti internet, prezzo variabile tra i 13.000 e i 25.000 euro a settimana e dedicata soprattutto ad una clientela straniera interessata a servizi aggiuntivi di lusso quali vasca idromassaggio, bagno turco, terrazza panoramica e attracco privato per l'ingresso diretto dal canale. Vi abbiamo riproposto un pezzo, un servizio della, della televisione locale veneta, l'avete sentita appunto la ricostruzione di come la Guardia di Finanza da qualche mese a questa parte si è impegnata con i risultati che avete sentito anche in questa attività di controllo ed accertamento del fenomeno dei bed and breakfast abusivi. Ma non solo, prima di parlare di questo però vorrei anche capire quest'estate che cosa è successo in Italia. Peraltro se andate su Google, mi sono tolta questa curiosità in questi giorni, e digitate evasione fiscale, escono talmente tante notizie di cronaca che uno dice: ma sarà poi vero che si combatte tanto per sconfiggere questa piaga terribile che mette in ginocchio tutta l'economia italiana e ci dipinge sempre ovunque come delle persone pronte ad approfittare di qualunque situazione pur di gabbare il fisco? Guardate, ve ne leggo alcuna. 4 milioni recuperati dal comune nel 2015 a Rimini, una notizia del 22 agosto. 32.000 posizioni irregolari scoperte aperte nel 2015. Una notizia lo stesso di quel giorno che riguardava la il bilancio della CGIA di Mestre, che peraltro vi racconteremo tra poco. Poi Reggio Calabria, un'evasione fiscale da 4 milioni e mezzo di euro scoperta a metà agosto, 5 milioni e mezzo nei guai gestore di spiagge a Sanremo. Insomma, qua potrei continuare ancora a lungo, ma quest'estate che cosa è successo? Lo chiediamo al tenente colonnello Antonio Sassi del Comando Provinciale di Venezia della Guardia di Finanza. Venezia naturalmente interpellata proprio perché adesso ci racconterà l'attività di accertamento sui bed and breakfast abusivi. Ma colonnello Sassi, buongiorno, ci racconti un po' invece se ancora abbiamo a che fare con i tanti furbetti dello scontrino che continuano ad animare un po' il commercio italiano, soprattutto in estate, con tutto il rispetto naturalmente di coloro che fanno attività regolare, sono la stragrande maggioranza, lo devo precisare colonnello, perché altrimenti cominciano a piovermi addosso messaggi di persone che dicono fate di tutta l'erba un fascio e quant'altro, e però l'attività di accertamento della Guardia di Finanza non si sa come mai è sempre molto intensa. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, il bilancio dell'estate 2016 qual è, colonnello? Il bilancio dell'estate 2016 della Guardia di Finanza è in linea con quanto è stato detto finora, e sono assolutamente d'accordo con lei in questo, perché la nostra attività anche in questo periodo estivo è stata indirizzata soprattutto a colpire le posizioni abusive, le posizioni irregolari maggiormente rilevanti e maggiormente importanti, in modo tale da tutelare da un lato chi fa impresa, e sono, come ha detto lei, la stragrande maggioranza, in maniera seria, in maniera onesta e rispettando le regole, attività che è ancora più difficile e complicata in questi periodi in cui la congiuntura economica non è particolarmente favorevole, e dall'altro anche, visto il periodo estivo e di vacanza, a garantire ai nostri cittadini italiani e ai tanti, tantissimi turisti anche che dall'estero si riversano nel nostro paese, una quotidianità migliore e una più tranquilla soggiorno, in modo tale che possano anche ricordare e apprezzare ancora meglio le tante bellezze che l'Italia ci offre, come appunto ad esempio la città di Venezia. Turisti che quando vengono in Italia, colonnello Sassi, vorrebbero portarsi a casa magari qualcuno dei nostri prodotti, e poi scopriamo che voi ne avete sequestrati in tutta Italia 13 milioni di prodotti contraffatti e insicuri, e poi controllate anche a spron battuto i distributori stradali di carburante. Quest'anno c'è anche questa nuova voce che arricchisce il bilancio della vostra attività. Ma guardi, sull'attività di contrasto alla contraffazione i dati sono grosso modo in linea con il trend di tutti gli anni, ed è chiaro che è un'attività che nel periodo estivo si sposta più su località ad alta densità turistica e ad alta frequentazione. Bisogna dire anche, per una più corretta e precisa informazione nei confronti dei nostri ascoltatori, che molti, una grande parte di questi prodotti che abbiamo sequestrato sono non solo contraffatti ma anche insicuri e quindi pericolosi per la salute, e molto spesso questi prodotti pericolosi sono giocattoli che vanno in mano ai nostri figli e possono quindi costituire un pericolo ulteriore per la loro salute e per la loro incolumità. Scoperti anche centinaia di venditori abusivi, 2000 lavoratori irregolari, 420 casi di affitto in nero, controllati 346 money transfer, monitorate oltre 640 operazioni. Il bilancio dell'attività estiva della finanza lo trovate su internet per tutti coloro che fossero curiosi dei dettagli. C'è stata qualche città particolarmente controllata e monitorata, colonnello Sassi? Leggo di Napoli, ad esempio. Sì, è chiaro, come le dicevo in precedenza, che comunque al di là delle indagini più strutturate e condotte di norma sotto l'egida dell'autorità giudiziaria, quindi dei magistrati, e che sono svolte costantemente senza soluzione di continuità nel corso dell'anno, soprattutto dai nuclei di polizia tributaria, che sono i nostri reparti di punta dal punto di vista investigativo. Un'altra parte della nostra attività è quella di controllo economico del territorio, che per ovvie ragioni nel periodo estivo viene spostata e incentrata soprattutto sulle città e sulle località maggiormente frequentate. Infatti, per esempio, ce n'è una di operazione anche registrata venerdì scorso, la Guardia di Finanza La Maddalena ha eseguito questa operazione anche piuttosto importante, sono finiti sotto i riflettori il rilascio naturalmente degli scontrini, contraffazione, rispetto dei prezzi, indici di capacità contributiva, controllate le attività commerciali della zona, le spiagge, ma anche le intestazioni di auto, barche di lusso, ma anche un'imbarcazione battente bandiera delle isole Cayman. E poi in quella località, appunto in provincia di Olbia, come molti sapete, come tutti sapete, i finanzieri hanno contestato il mancato rilascio di 22 scontrini fiscali, che possono sembrare poco, ma in realtà l'evasione ammontava diverse migliaia di euro in una sola mattinata. Andiamo a Venezia, colonnello Sassi, perché di questa operazione so che siete particolarmente fieri, se lo si può essere, però insomma andiamo un po' a questa operazione che è stata ribattezzata Venice Journey. Se ne parla molto adesso perché naturalmente i turisti aumentano, ma in realtà voi siete attivissimi già da tutto l'inverno e il bilancio di quell'attività lo avete diramato in maggio, ma state andando ancora avanti. Che cosa state scoprendo a Venezia? Sì, ovviamente le attività di questo tipo vanno preparate per tempo, non ci si può improvvisare. Questa attività ha preso le mosse da l'unione di due importanti nostre attività di controllo e monitoraggio. La prima è quella di cui le parlavo prima, cioè il controllo economico del territorio, le informazioni che le nostre pattuglie, i nostri militari raccolgono su strada e attraverso l'esame e gli incroci dei dati a nostra disposizione. Dall'altro lato l'esplorazione e l'approfondimento delle innumerevoli di un patrimonio sconfinato di notizie che troviamo tutti quali fruitori della rete su internet. Possiamo andare alla sintesi, colonnello, perché sto già chiudendo il primo blocco. E quindi, gestori dei bed and breakfast, quanti ne avete trovati non a norma? Allora, attualmente stiamo andando avanti, abbiamo fatto già un centinaio di controlli sui posizioni irregolari di locazioni turistiche e abbiamo scoperto, come ha mostrato lei all'inizio, posizioni di ogni tipo, dalla magione di lusso completamente sconosciuta al fisco a 20.000 euro a settimana, sino all'ostello e all'affittacamere abusivo dove invece in 20 erano i turisti ospitati, se così si può dire, all'interno della struttura, in condizioni anche di igieniche abbastanza precarie e quindi non molto piacevole, quindi non credo che avranno un buon ricordo di questo soggiorno i turisti in questo caso. Saranno anche contenti poi naturalmente coloro che gestiscono invece nella piena regolarità le attività ricettive. Mi piaceva ricordare, colonnello Sassi, che voi questa attività la state portando avanti grazie ad uno speciale programma software che si chiama Domus Network. Ho letto male? Sì. No, è corretto. Che cos'ha di particolare? Abbiamo elaborato noi al nostro interno, grazie a degli specialisti informatici che sono nella Guardia di Finanza, un programma che riesce a scandagliare le offerte su internet, a raggrupparle e a consentirci poi di analizzarle per selezionare le posizioni maggiormente a rischio e quelle da controllare, attraverso anche la geolocalizzazione degli immobili che si presumeva affittati in nero. Da qui poi è scattata anche un'importante collaborazione con la Polizia Municipale del Comune di Venezia, che ci ha aiutato proprio fisicamente a trovare le abitazioni e le camere che stavamo cercando per riscontrare la regolarità o meno, e quindi in questo abbiamo avuto un grande aiuto dalla Polizia Municipale. Mi preme anche sottolineare il fatto che questa attività, oltre a consentirci ovviamente di raggiungere dei risultati e a portare avanti dei controlli che poi saranno sviluppati in vari campi, è molto importante perché ha creato e ha generato un effetto di compliance molto rilevante, tant'è che dall'inizio delle nostre attività siamo passati da 200 comunicazioni amministrative al Comune di Venezia di inizio attività locazione turistica a quasi 2.000, per cui molti operatori che magari prima non erano così intenti a osservare le regole hanno capito che i controlli sono efficienti, che funzionano e che bisogna invece rientrare all'interno della legalità e della regolarità. L'emersione dal nero è avvenuta automaticamente. Grazie colonnello Sassi per essere stato con noi, bocca al lupo per la vostra prossima attività. Sono già le 8:30, devo andare in pubblicità. Intanto saluto François Drulé, presidente della sezione turismo di Confindustria Venezia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. E anche Vittorio Bonaccini, presidente dell'Associazione Albergatori della Laguna. Eccoci a lei. Sì. Buongiorno. Buona giornata. Abbiate buona pazienza, giornata. 2 minuti, sentiamo un po' di pubblicità, poi vi faccio commentare tutto questo che sicuramente, magari per certi versi, a voi farà piacere sentire queste notizie, perché tutto ciò che va ad abbattere, ovviamente a combattere l'abusivismo in questo settore, aiuta anche voi. Dall'altra parte poi non è che si fa un gran bel parlare di Venezia in giro per il mondo, e questo un po' naturalmente è invece l'altra faccia della medaglia. Che pure bisogna commentare fra un attimo. Ma cos'è quest'estate? Vi abbiamo raccontato di questa attività in cui è impegnata da mesi la Guardia di Finanza di Venezia contro i bed and breakfast abusivi, molti dei quali stanno a questo punto emergendo dal nero. Certo è che però è un'operazione dai numeri importanti, e non so se ha fatto tanto bene anche al turismo. François Drulé, presidente della sezione turismo di Confindustria Venezia, ben vengano tutti questi accertamenti, o in qualche maniera anche voi siete un po' disturbati da tutta questa attività di accertamento, che poi tante volte anche nella così considerazione magari dell'utente finale che ascolta queste notizie, anche un po' per come le raccontiamo con toni anche abbastanza vivaci, insomma, dicono vabbè, sono tutti uguali, tutti ci provano. Poi insomma, Venezia probabilmente, per tutti gli avventori che ci sono ogni anno, ha bisogno sicuramente di una risposta in termini di strutture ricettive molto importante, ma qua ecco, forse sono partiti tutti con un po' di eccesso di entusiasmo, tutti in casa nel proprio bed and breakfast, è così? Sì, sembrerebbe essere abbastanza così. Intanto complimenti alla Guardia di Finanza che ha svolto e sta svolgendo un'attività importante di pulizia di questo tipo di attività extra alberghiera che sta vivendo e che ha vissuto un abusivismo abbastanza importante. Il tema del bed and breakfast, la posizione degli alberghi in generale non è quella di dire il bed and breakfast non deve esistere. Il bed and breakfast deve esistere, ma deve esistere rispettando quelle che sono le regole che vengono imposte dalla legge da una parte, e non entrando in concorrenza leale o diretta con il mondo degli alberghi. Ricordiamo che il mondo degli alberghi vive una situazione burocratica molto importante. Noi abbiamo una serie di compliance da rispettare nei confronti di tutto quello che è il mondo della sicurezza, il fiscale e tutto quello che riguarda l'ospitalità dell'ospite. Ecco, pertanto dobbiamo trovarci nella situazione di avere una tutela di quelli che sono i nostri investimenti, per investire ancora di più e qualificare l'offerta dei nostri alberghi sul territorio in generale, sia venuti che fuori, e per fare questo bisogna che la legge intervenga e che regoli quelli che sono le attività del mondo del trattativo. Certo, ma non esiste, presidente Drulé, un modo per Confindustria, appunto, per poterli mappare e quindi fare in modo poi che non si parli di operazioni di questo tipo? Sì, no, guardi, l'attività dell'associazione non è quella di controllo del territorio. Il controllo del territorio deve essere svolto dall'amministrazione pubblica e che deve tutelare gli interessi evidentemente anche delle associazioni. Allora, Vittorio Bonaccini, presidente dell'Associazione Albergatori della Laguna, lei che cosa ne pensa di questa attività condotta dalla finanza da qualche mese a questa parte? L'evasione fiscale, appunto, che naturalmente tutto questo meccanismo metteva in piedi, era abbastanza importante. Così, ghignavate un po', soddisfatti di questi controlli, oppure tutto sommato, insomma, quando poi si parla di Venezia in questi termini non va bene neanche per voi? Bonaccini. Eccoci, allora buongiorno e buongiorno a tutti. Come Associazione Veneziana Albergatori non possiamo che plaudire senza alcuna riserva all'operato della Guardia di Finanza, questo è certo ed è evidente, ovvero sia non è possibile, non è concepibile nel 2016 che esistano ancora situazioni del genere, quindi ovviamente l'Associazione Veneziana Albergatori si è da sempre schierata a favore della legalità. Gradirei appunto sottolineare che come associazione, ed è la seconda associazione di categoria alberghiera a livello nazionale, Abbiamo cooperato direttamente con la Guardia di Finanza tramite la nostra Federalberghi. Federalberghi, principalmente Roma, ha iniziato proprio con la Guardia di Finanza in passato proprio un'opera e la creazione di un programma software per l'individuazione di strutture ricettive, mettendo in parallelo offerte via internet e situazioni catastali in rapportate direttamente alla municipalità. Quello che preme sottolineare è che questa illegalità drammaticamente diffusa, e sono convinto che sia appena la punta dell'iceberg quella che abbiamo iniziato a trovare, è particolarmente grave in questo periodo. Infatti non dobbiamo dimenticare che stiamo vivendo proprio un momento particolarmente travagliato sotto il profilo della sicurezza. Non dimentichiamo che tutte queste strutture che operano in modo illegale sul territorio non registrano né tantomeno notificano direttamente alla questura evidentemente la presenza dei loro ospiti. Il che cosa significa? Significa sotto il profilo pratico che le forze dell'ordine non possono avere contezza di chi è presente nel territorio, quindi in una fase di insicurezza internazionale non sapere chi è alloggiato nel territorio è di una gravità estrema. Anche perché quello che Bonaccini stavo pensando adesso, comunque, per quanto siano queste strutture abusive, il tema è che comunque riescono a farsi conoscere. Se richiamano turisti che per esempio arrivano dall'estero, è evidente che in qualche maniera questi turisti queste informazioni le hanno trovate facendosi un giro su internet, quindi ma il fatto esatto, quindi in qualche maniera sono rintracciabili, non ma è certo proprio che sì, ma certo che sì, ecco perché io ho appena premesso, ho detto poc'anzi che sono convinto che siamo all'inizio, abbiamo appena iniziato a scalfire la punta dell'iceberg. Di questo non sono assolutamente certo. Infatti, Drulé, tra l'altro, oltre ai bed and breakfast abusivi, c'è anche tutto l'altro fenomeno che sta veramente scompaginando tutto il mondo del turismo. Quello è regolare, ma forse pone problemi di altro tipo, che è quello di Airbnb, che dà la possibilità anche magari ad una singola famiglia che ha disponibile una sola camera da letto nella propria abitazione, appunto, di mettere l'annuncio su questo circuito internazionale che ha avuto un grandissimo successo e quindi di diventare praticamente piccolo albergo. E questo capiterà naturalmente anche a Venezia. Vi infastidisce questo clamore, questo successo che Airbnb ha lì? È tutto regolare, perché se io metto il mio annuncio naturalmente per la disponibilità della mia camera su questo sito, poi naturalmente il pagamento è tutto assolutamente tracciato, e però comunque non sono un albergatore a tutti gli effetti. Anche lì c'è probabilmente qualche aspetto da considerare, Drulé. Sì, no, anche il tema di Airbnb è legato comunque al mondo dei bed and breakfast, perché il bed and breakfast si distribuisce anche attraverso Airbnb. Airbnb è un tema importante, è un tema che si è sviluppato negli ultimi 5 anni in maniera molto, molto grossa, sia in Italia che in Europa. In Europa ci sono alcune città che hanno già incominciato ad attivarsi per fare in modo che questo venga regolato, per tutelare un'altra volta quello che è il mondo degli alberghi, ma soprattutto il mondo della sicurezza. Lei pensi soltanto al B&B, lei affitta il suo appartamento all'interno di un condominio, nel condominio entra, come diceva Bonaccini, chiunque, che può essere dall'attentatore o comunque a un gruppo di giovani ragazzi che arrivano e che creano disturbi all'interno del condominio, se va bene, ma potrebbe anche succedere che evidentemente possano crearsi delle situazioni che sono ben più gravi. Perché ricordo che nel mondo degli alberghi tutti i clienti che vengono accecchinati, che soggiornano presso le nostre strutture, vengono registrati e i dati di registrazione vengono comunicati alla questura di giorni. Ecco, questo non accade in altri tipi di albergazione che evidentemente sono scoperti. Anche se in realtà lì il circuito poi della della reputazione, c'è cioè un resoconto anche abbastanza attento sul sito di Airbnb, certo, però probabilmente insomma magari possiamo comportarci proprio per confondere le tracce molto bene. bene in quattro località in cui siamo stati, poi quella dove dobbiamo arrivare. Insomma, speriamo che non si debba parlare anche di questo. Detto questo, insomma, un momento molto delicato anche per il turismo italiano, il nostro grande tesoro, e speriamo di dover parlare sempre meno di operazioni come quella che abbiamo raccontato all'inizio della finanza di Venezia, che naturalmente non permette anche a Venezia di far parlare molto bene di sé in giro per il mondo. Ma insomma, nonostante Airbnb, vorrei dire un'altra cosa che è molto importante, soprattutto nell'ambito di quello che è il mondo veneziano. Airbnb crea un'inflazione nell'ambito di quello che è il mondo delle locazioni. E noi parliamo tutti i giorni, lo vedete sulla stampa, si parla tutti i giorni del veneziano che lascia Venezia per andare verso la terraferma, no? Perché sì. c'è questo sistema. Ecco. Questo tema nell'ambito di Airbnb è un tema cruciale, perché è evidente che se io non fiscalmente, intanto non è esattamente come diceva lei, Airbnb, anche Airbnb ha dei lati che sono abbastanza oscuri, ma comunque se evidentemente una locazione ha un valore X su un contratto, diciamo, di medio-lungo periodo, è chiaro che se io affitto a settimana avrò un beneficio maggiore in termini di rendita di quella locazione. Certo. Cosa farò io? Avrò la volontà di evidentemente cercare di affittare il numero possibile maggiore di settimane contro un affitto a lungo termine, perché mi renderà di più in termini di metro quadrato. Insomma, tema caldo da continuare a monitorare. Grazie a Vittorio Bonaccini dell'Associazione Albergatori della Laguna, presidente, e François Durelet, presidente della sezione turismo di Confindustria Venezia. Ancora un paio di ospiti prima di chiudere questo blocco. Nicola Forte, consulente fiscale per il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno ai nostri ascoltatori. E Paolo Zabeo, che invece è coordinatore della CGA di Mestre, buongiorno. Buongiorno a voi. Anche per voi il controllo certosino dei numeri per così monitorare un po' il fenomeno dell'evasione fiscale è un'attività pressoché quotidiana. Voi Zabeo avete proprio nei giorni scorsi diramato un bilancio addirittura sull'attività della Guardia di Finanza effettuata in questi ultimi 15 anni. Che cosa avete scoperto? So che avete fatto un monitoraggio particolarmente attento per quello che riguarda l'evasione contributiva nel mondo del lavoro. Beh, il turismo comunque ce lo infiliamo dentro assolutamente tranquillamente, mi pare. Insomma, cosa avete scoperto, perché avete fatto questa indagine, Zabeo? Perché come CGA di Mestre ormai da sempre abbiamo una certa sensibilità per il tema del fisco, delle tasse e dell'evasione fiscale, e in particolar modo in questa analisi abbiamo riscontrato che dall'attività di verifica di controllo della Guardia di Finanza negli ultimi anni c'è stato un forte aumento dell'imponibile sottratto agli evasori. Dal 2013 in particolar modo c'è un crescendo, siamo passati da 52 miliardi a oltre 61 nel 2015, per contro invece abbiamo registrato una riduzione invece degli evasori totali scoperti e dei lavoratori irregolari. Quindi vuol dire sostanzialmente che il lavoro dell'amministrazione finanziaria nel suo complesso si sta orientando verso la caccia, tra virgolette, ai grandi evasori. Per carità, non è che chi non emette lo scontrino a ricevuta fiscale sia giustificato, va praticamente contrastato anche questo, però abbiamo visto che l'azione politica dell'amministrazione punta direttamente verso i grandi evasori. Penso all'azione encomiabile che è stata condotta nei confronti ad esempio delle multinazionali del web, sono stati incassati dal fisco centinaia e centinaia di milioni in questi ultimi anni, e questo sta dando i suoi frutti, nel senso che appunto quanto si porta a casa aumenta, anche se va detto che questi dati sono relativi all'imponibile sottratto al fisco. Altra cosa è quanto viene riscosso effettivamente dall'amministrazione finanziaria. Siamo ancora a livelli, seppur in crescita, abbastanza modesti, nel senso che abbiamo incassato l'anno scorso circa 10 miliardi di euro, se poi aggiungiamo anche le sanzioni e gli interessi di mora si arriva quasi a 15. Quindi voglio dire, il lavoro da fare è ancora molto, però mi pare che la strada che è stata intrapresa sia quella giusta e quella in qualche modo che sta dando risultati molto importanti. Tema dei grandi evasori, diceva lei, ma che cosa ne pensa invece di questo, tra virgolette, nuovo fenomeno che sta emergendo nell'ambito turistico? Bed and breakfast abusivi e qualche posizione non troppo chiara che emerge dal circuito che si è creato con Airbnb, perché devo dire che lo so anche un po' per esperienza, perché molti me lo raccontano che avrebbero la tentazione di magari rendere disponibile un pezzo del proprio appartamento. Qua a Milano pure c'è sempre una grande richiesta, poi però in realtà ancora non abbiamo ben capito come gestire con il fisco queste posizioni, Zabeo. Sì, è una situazione molto, molto complessa, come già voi avete messo in luce nel servizio precedente, cioè con gli ospiti in precedenza. Tradizionalmente comunque il comparto del commercio, dei trasporti e soprattutto dell'alloggio e della ristorazione è sempre stato al centro praticamente dell'azione di contrasto dell'evasione, lì si annida praticamente una quota importante dell'attività irregolare. Ovviamente questo è anche alla luce del fatto che cioè, fortunatamente io dico, il settore del turismo costituisce la prima industria economica italiana, per cui è chiaro che ci sono anche situazioni in qualche modo grigie, se non addirittura sommerse, che vanno assolutamente combattute e contrastate, perché chi fa evasione praticamente ovviamente fa concorrenza sleale a chi non vuole, non può farlo, come praticamente gli albergatori o chi ha un'attività alla luce del sole. Allora io vorrei anche precisare una cosa, perché già vedo che non appena si parla e non si precisa bene con un ragionamento il concetto che si vuole esprimere, gli ascoltatori si scatenano. Ma nessuno ha detto che quelli che ospitano con Airbnb siano degli evasori fiscali, ma per carità del cielo, io ho fatto un ragionamento con il presidente della sezione turismo di Confindustria Venezia, intanto come vedono questo fenomeno, che comunque ha avuto un'incidenza talmente rilevante negli ultimi, forse nell'ultimo anno, negli ultimi due anni anche nel turismo italiano, che ancora non si capisce bene. Voi avete la totale chiarezza di come fiscalmente appunto debba essere gestita una posizione appunto per chi ha la disponibilità di queste abitazioni o di una porzione della propria abitazione? Lo sapete immediatamente, la vostra testa ve lo dice immediatamente con il fisco come bisogna gestire queste posizioni. Nicola Forte, è davvero tutto così chiaro? No, assolutamente no, perché ci troviamo proprio di fronte al fenomeno della legge che insegue un modo diverso di ospitare appunto gli utenti, coloro che in passato magari si avvalevano di strutture di tipo alberghiero. Mancano delle disposizioni fiscali specifiche e l'Agenzia delle Entrate fortunatamente ha fornito dei chiarimenti, proprio perché mancano delle norme puntuali. Per esempio, è fondamentale verificare se nel corso dell'anno ci sia un periodo di sospensione dell'attività di almeno 90 giorni, perché se questo si verifica l'attività è di tipo occasionale, quindi non c'è necessità di chiedere la partita IVA. Viceversa, se l'attività viene svolta con continuità è necessario chiedere la partita IVA. E poi ci fa riferimento anche alle caratteristiche della struttura, al numero degli ospiti che possono trovare appunto alloggio, al fatto che il proprietario risieda presso lo stesso immobile. Molto spesso si fa riferimento a normative di tipo regionali che non sono uniformi su tutto il territorio, quindi è un fenomeno che va controllato a macchia di leopardo e questo rende il tutto più difficile. Antonella da Parma ha sollevato il telefono all'800 24 00 24, al suo commento sul tema che mi rendo conto noi stiamo trattando anche in maniera abbastanza superficiale, avrebbe bisogno di approfondimenti continui, però insomma abbiamo fatto questo piccolo taglio sul tema turistico. Adesso vorrei anche chiedere poi ai nostri ospiti che autunno sarà per questo grosso problema italiano, quello dell'evasione fiscale. Stanno partendo, lo ha detto la numero uno dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi appunto nei giorni scorsi, le 200.000 lettere di accertamento sulla dichiarazione dei redditi entro ottobre, ma oltre a questo che cosa ci dobbiamo aspettare da questo punto di vista? Però sentirei Antonella. Buongiorno Antonella. Sì, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. E ascolti, io rapidamente la mia esperienza. Io sono sul circuito Booking e affitto su turistico due piccoli appartamentini che ho in città e praticamente è tutto tracciato. Quindi ovviamente io ricevo fattura da Booking, pago la commissione da Booking, sulla base dell'imponibile che mi rimane mi faccio la mia dichiarazione dei redditi. Quindi è tutto molto alla luce del sole. Io quest'estate sono stata a fare una vacanza di 8 giorni in un agriturismo in Maremma. Bene, ho dovuto richiedere brutalmente la ricevuta dell'agriturismo e in tutti i posti dove sono andati a mangiare le ricevute non esistevano da nessuna parte, ecco. Normalmente agriturismi e qualche ristorante. La ringrazio anche... Antonella, per questo racconto, perché voglio andare di nuovo subito a Paolo Zabeo. Io naturalmente prendo atto della riflessione che ha fatto sulla necessità di andare a combattere i grandi evasori, sono questo il vero problema, però il tema del piccolo, pure Zabeo, non lo possiamo proprio mettere da parte. Le leggo anche, ma gliene potrei leggere 50 perché si è aperto un vaso di Pandora stamattina. Deborah, ecco un piccolo esempio di evasione. Luglio, piccolo negozio di vetri a Murano, pieno all'inverosimile di turisti. Panico quando chiedo di pagare con carta di credito, alla fine accettano, mi danno lo scontrino fiscale, portava il numero 1, era il primo della giornata. Zabeo, siamo proprio sicuri che non bisogna invece intensificare la lotta contro quelli un po' più piccoli? Ma guardi, fino a qualche tempo fa, nell'immaginario collettivo anche di chi chiama ovviamente, perché vive quotidianamente, quando nel momento in cui va a chiedere dal barista il caffè, poi non gli dà lo scontrino, oppure l'idraulico non gli fa la ricevuta, per la signora Maria ovviamente, insomma, quella è l'evasione, perché la tocca, la vive con mano. Giustamente la signora è andata a Murano, tra l'altro una situazione di grande crisi dove tutte le vetrerie stanno chiudendo, quindi insomma, una situazione anche un po' particolare. Ovviamente per quello è nell'immaginario collettivo il tema dell'evasione, quello è, diciamo così, l'evasore. In realtà noi abbiamo scoperto, o meglio abbiamo visto negli ultimi mesi che con diciamo così, la pubblicazione dei Panama Papers e della lista Falciani, che fortunatamente invece è venuta a galla la vera evasione di questo paese, che non è appunto il barista o l'idraulico che non ti fa la ricevuta, che comunque va combattuta e contrastata, ci mancherebbe, ma sono i grandi imprenditori, i banchieri, i finanzieri, i manager pubblici e privati, i VIP dello sport e dello spettacolo, che portavano a IOSA milioni e milioni di euro fuori dal nostro paese, sì, nei cosiddetti paradisi fiscali. Ecco, quindi è chiaro che chi chiama non ha contezza, non è che sostanzialmente gli crei qualche problema il grande imprenditore che porta magari decine e decine di... No, però sa, se diamo pure questa giustificazione al piccolo, che poi si sentirà di dover dire, beh, figuratevi se sono io il problema, con tutto quello che vadono i grandi, che li portano alle Caimano, ai paradisi fiscali. Guardi, dottoressa, l'amministrazione finanziaria negli anni scorsi ha fatto alcune azioni, si ricorda i blitz, sì, a Cortina, a Courmayeur, eccetera. Nicola Forte, guardi, ne abbia raccontate, sì, di tutto. Ecco, poi alla fine si è capito sostanzialmente che questi avevano un effetto mediatico importante, ma in cassa arrivava poco nulla, anche perché la stragrande maggioranza delle attività che non sono in nero, completamente in nero, sono sottoposte agli studi di settore, quindi in qualche modo praticamente hanno la loro contabilità, o meglio i propri ricavi contabilizzati, decisi a tavolino dall'amministrazione finanziaria, quindi non c'è molta possibilità di uscire, di evadere, di sfuggire al fisco, anche perché ad oggi sostanzialmente l'amministrazione finanziaria ha una moltitudine di strumenti, tra studi di settore, spesometro, redditometro, l'abolizione del segreto bancario, il limite dell'utilizzo dei contanti, l'anagrafe tributaria e, come ricordavo, anche la possibilità di controllare se uno ha messo scontrini o ricevute. Quindi in qualche modo il fisco oggi ha tutti gli strumenti possibili e immaginabili per contrastare realmente l'evasione. Eppure sentiamo che in tanti... È capire dove andare a parare. E mi pare che i risultati di questi ultimi anni ci diano ragione, nel senso che contrastando la grande evasione in maniera più puntuale rispetto a una volta, gli effetti economici sono migliori. Nicola Forte ha citato Zabeo, redditometro, spesometro come attività di accertamento. Lei se lo ricorderà, 2-3 anni fa facevamo almeno una trasmissione a settimana, mettendo anche un po' in ansia gli ascoltatori che ci hanno tante volte contestato il fatto che dicevamo di non aver paura di queste modalità di condurre gli accertamenti fiscali da parte dell'amministrazione fiscale, appunto. E poi in realtà molti forse avevano ragione, perché l'accertamento tante volte ha delle derive, degli accanimenti su certi contribuenti inspiegabili. Detto questo, oggi sono un po' meno intense queste attività di accertamento, che cosa può dirci a questo proposito? Certo, direi che sono più mirate, questo l'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate e del direttore Rossella Orlandi. La grande evasione, e soprattutto ci si può rivolgere ai piccoli, ma quando le cifre sono più consistenti, più interessanti. Quindi l'utilizzo del redditometro non voglio dire che è stato centellinato, ma è stato indirizzato proprio verso quei soggetti a maggior rischio, anche perché noi dobbiamo considerare che i controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate hanno un costo, controlli che poi non portano a un risultato vogliono significare sottrazione di risorse ai controlli nei confronti di altri soggetti che invece sono interessanti per il fisco. Quindi un utilizzo più mirato, e quindi sotto questo profilo ne abbiamo fatto appunto poc'anzi riferimento, redditometro, ma spesometro e studi di settore. Ecco, una precisazione: con gli studi di settore l'Agenzia delle Entrate non determina a tavolino i ricavi o i compensi. Questo è uno strumento che in qualche modo è stato limitato anche dalla Corte di Cassazione, ma questo strumento dovrebbe determinare il cosiddetto effetto di persuasione, cioè indurre spontaneamente i contribuenti, posto che finiscono sotto una lente di ingrandimento, a dichiarare spontaneamente. Quindi dobbiamo chiudere forte, sì, esatto, un'educazione alla legalità. Allora ci fermiamo, abbiamo adesso il giornale radio, poi ritorniamo insieme. Saluto Paolo Zabeo della CGIA di Mestre, c'è il giornale radio. Chiedo a Nicola Forte di rimanere con noi perché un'ultima domanda per lui riguarda proprio il sisma, il terremoto, la ricostruzione. Ma cos'è quest'estate? La cronaca dalle zone del terremoto continua. Allora, lo sapete, le novità delle ultime ore riguardano l'avvio da parte delle procure di Ascoli Piceno e Rieti dei primi accertamenti sui danni causati dal terremoto del 24 agosto che appunto ha colpito l'Appennino fra Lazio e Marche, Amatrice e Accumoli, su un versante, Arquata del Tronto, Pescara del Tronto, Montegallo nell'Ascolano. Ai vigili del fuoco e ai carabinieri, i magistrati hanno chiesto di segnalare situazioni particolari che dovessero eventualmente emergere durante le vita di soccorso, e la magistratura, che naturalmente la magistratura non intende in alcun modo di rallentare, è stata fatta questa precisazione con forza. Nelle Marche peraltro non si ha notizia di edifici pubblici costruiti di recente che sono crollati o stati seriamente danneggiati dalle scosse del 24 agosto e dai giorni seguenti, come invece è accaduto per esempio con la scuola capranica di Amatrice, che in questi giorni è fortemente sotto i riflettori anche per queste, tra virgolette, passatemi il termine, responsabilità che verrebbero a attribuite al sindaco Pirozzi, che avrebbe assegnato i lavori appunto al vice sindaco, che ha uno studio tecnico, un geometra, un ingegnere, adesso non mi ricordo bene, quindi anche una potenziale situazione di conflitto di interessi molto pesante. Il sindaco Pirozzi questa mattina viene intervistato da molti giornali e lui dice: qui siamo parte lesa, io in quella scuola ci mandavo i miei figli. Laura Bettini in queste ore per noi è ad Amatrice. Laura, buongiorno. Buongiorno a te, Deborah, e a tutti gli ascoltatori. Allora, che cosa puoi raccontarci in questo momento? Ne abbiamo avuto anche una staffetta di colleghi ad Amatrice in questi giorni, ieri Valeria De Rosa, il giorno precedente Maria Piera Ceci, poi in precedenza ancora appunto Daniele Morini e tanti altri, e la nostra Elisabetta Fiorito naturalmente. Tu, Laura, in questo momento dove sei? Cosa stai controllando? Dunque, monitorando? Sono arrivata stamattina molto presto ad Amatrice, con la speranza poi di potermi spostare in una località che si chiama Faissano, dove la Coldiretti tra non molto farà un incontro con gli agricoltori. Sappiamo, allevatori e agricoltori sono una parte dell'economia importante di questa zona ed è stata ovviamente molto colpita dal terremoto, e non avevo fatto i conti con la viabilità, quindi adesso sto camminando per raggiungere questa località. Sono vicino a un campo in una località di nome Sommati, dove tutto ovviamente procede come vi hanno raccontato i nostri colleghi nei giorni precedenti: ruspe, gru, si cerca di fare spazio, si scavava stamattina ancora da Amatrice. È stato estratto il corpo di una ospite dell'hotel Roma, ma questo sicuramente ve l'hanno già raccontato, sì, I nostri giornali radio in precedenza. Insomma, i lavori continuano. Per chi, Deborah, come me è stato precipitato qua da una località di vacanza, l'impatto non poteva essere più. Infatti sai che mi stava incuriosendo questo, Laura, da quello che vedevi fino a ieri sera sul telegiornale, all'impatto che hai avuto questa mattina essendo lì in prima fila? Il salto è grosso. Sai cosa colpisce prima di tutto? I resti della normalità, il cartello con scritto centro estivo, il vaso di fiori che sta ancora lì, e dici chissà quanto tempo ancora questi fiori andranno avanti senza che nessuno gli dia l'acqua. Le piccole cose della vita che sono rimaste lì sono interrotte e non si sa se e quando riprenderanno. Questo è veramente la cosa che colpisce di più delle case che appunto abbiamo visto mille volte nei telegiornali negli ultimi giorni, l'abbiamo vista purtroppo negli anni scorsi, è proprio la testimonianza della vita che si è interrotta. Laura, grazie, ti lasciamo lavorare perché anche per te, come dicevi poco fa, essendo stata catapultata lì da una località di vacanza, la giornata sarà lunga per raccontare in ogni giornale radio appunto la cronaca della giornata, della nuova giornata difficilissima di Amatrice e di tutto il comprensorio tra Lazio e Marche. Allora, avevo chiesto a Nicola Forte di rimanere ancora con noi, adesso vi spiego anche perché. Intanto saluto Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Giunta regionale del Lazio, assessore alla formazione Università, Scuola, Ricerca e Turismo. Assessore, buongiorno, vicepresidente, come preferisce. Buongiorno anche a lei. Grazie. Allora, adesso le chiedo un minutino di pazienza, poi devo lasciare Nicola Forte, perché Nicola Forte è stato interpellato in queste ore, nostro consulente fiscale, anche su un altro tema tra tutti quelli che sono di sua competenza e pertinenza. Allora, ricostruzione delle zone colpite dal sisma e misure fiscali che possono essere necessarie forte per velocizzare questa opera di ricostruzione. Già fare il monitoraggio dei danni sarà un'operazione estenuante che richiederà settimane. Poi immaginare come possa avvenire la ricostruzione, già tutti hanno cominciato a fare i cosiddetti commissari tecnici della Nazionale, tutti parlano, tutti dicono la loro. Renzo Piano si è incontrato con Matteo Renzi, a Vasco Errani verrà dato probabilmente l'incarico di coordinare la ricostruzione, ripartendo da quello che è stato ridefinito e ribattezzato il modello Emilia. Fiscalmente parlando, cosa potrebbe aiutare a rendere tutto un po' più semplice? Possibilmente parlando di semplicità in una situazione drammatica come questa. Certo, abbiamo una norma in vigore nel nostro testo unico che disciplina le detrazioni, cioè quindi un abbattimento delle imposte che devono essere versate. E le spese sostenute per la ricostruzione o ripristino di qualsiasi edificio danneggiato da un evento calamitoso, purché sia proclamato lo stato di emergenza, è detraibile nella misura del 50% fino a un massimale di spesa di 96.000 euro. È chiaro che questa è una norma in vigore, oggi si può detrarre fino al 50% questa detrazione ordinariamente in misura inferiore, speriamo venga prorogata, ma bisogna fare molto di più, perché qui noi parliamo di un meccanismo che abbatte le imposte, ma è atteso un provvedimento che in primis sospenderà il versamento delle imposte per i comuni che hanno subito il sisma, ma per beneficiare appieno di questo meccanismo bisogna trovarsi nelle condizioni di dover versare un'imposta, e se io non posso produrre, non ho un reddito, è evidente che non posso beneficiare di una norma di questo genere. Un po' tutto il sistema, a mio modo di vedere, deve essere rivisto proprio per favorire non solo la ricostruzione ma la prevenzione. Grazie Nicola Forte, che lasciamo, ci ha già dato una mano nella prima parte del programma. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Angelo Sciapichetti, assessore alla protezione civile della Regione Marche. Sciapichetti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senta Sciapichetti, comincio per un attimo con lei. Il versante marchigiano, allora, a 5 giorni dal sisma, in questo momento il bilancio della Regione Marche, qual è il suo commento sull'apertura dell'inchiesta da parte della Procura di Ascoli Piceno, che comunque poi dal punto di vista del lavoro, dell'attività giudiziaria, abbiamo capito che presumibilmente sarà quello un po' rietino, quello un po' più problematico, però può darci un commento anche su questo? Guardi, io penso che la magistratura debba fare il suo corso e quindi ha aperto un'indagine, staremo a vedere se ci sono responsabilità, è giusto e corretto che vengano accertate. Per il momento noi siamo concentrati sulla l'emergenza d'Arquata del Tronto è stata affrontata sin dal primo momento grazie alla protezione civile, ai vigili del fuoco, ai volontari in maniera molto positiva, e adesso stiamo passando alla fase successiva, che è quella di dare un tetto, speriamo il prima possibile, stabile alla popolazione che ha perso le abitazioni o che hanno le abitazioni inagibili. Ecco, da questo punto di vista cosa può dirci? Come vi muoverete nei prossimi giorni, visto che lei ha proprio l'assessorato più delicato che in questo momento deve coordinare assolutamente l'azione sul campo per garantire un tetto a tutti, e poi in un secondo momento, anche se in realtà poi c'è il tema parallelo del cominciare già a pensare appunto alla ricostruzione. Sciapichetti, quindi lì come sull'emergenza come siete? Guarda, noi sull'emergenza sin dal primo momento è scattata la macchina organizzativa della protezione civile in maniera, oserei dire, impeccabile e perfetta. Fino adesso ha funzionato tutto nella situazione data, ovviamente in una situazione disperata. Noi nelle Marche abbiamo un modello di ricostruzione che è un modello che ha funzionato 20 anni fa nel terremoto di Marche e Umbria. Non vorrei fosse dimenticato che quel modello fece ricostruire tutti i comuni interessati allora al sisma, e fu fatto in tempi certi, fu fatto senza nessuno scandalo e fu fatto con partecipazione dei sindaci e dei cittadini. Noi quel modello vorremmo rimetterlo in campo perché funzionò 20 anni fa e pensiamo che possa funzionare ancora. Che caratteristiche oggi aveva Sciapichetti? Che cosa aveva di peculiare questo modello? Intanto c'era il commissario era all'epoca il presidente della regione, ma poi c'aveva un ruolo fondamentale i sindaci del territorio, e fu consentito uno snellimento burocratico per dar via a tutte le procedure necessarie. Snellimento burocratico nella legalità, perché ripeto, nelle Marche nessuno lo dice, nelle Marche in Umbria 20 anni fa furono spesi 1.700 miliardi di vecchie lire per ricostruire queste due regioni, che sono state ricostruite, e non ci fu una denuncia, non ci fu uno scandalo. Quindi il meccanismo funzionò nella legalità e diede risposte in tempi rapidi, certi, alla popolazione interessata. A lei va bene che venga assegnato a Vasco Errani questo lavoro di commissario per la ricostruzione, oppure in frangenti come questo il nome conta poco, l'importante è che si lavori Sciapichetti, oppure comunque il profilo anche ha un significato? No, io sono assolutamente d'accordo. Vasco Errani è una persona che ha maturato purtroppo un'esperienza di questo genere nel terremoto in Emilia Romagna, è una persona competente, capace e seria, e quindi credo che possa essere la persona giusta. Ma al di là della figura di Vasco Errani, appunto, è necessario che ci sia il coinvolgimento da parte di tutte le amministrazioni comunali interessate. Bisogna mettere in campo una squadra. Se riusciamo a costruire una squadra coesa che tira tutta nella stessa direzione, noi in tempi abbastanza rapidi potremmo cominciare il discorso della ricostruzione, che è il problema più importante in questo momento, dopo appunto quello, certo, dopo quello dell'emergenza. Allora, Massimiliano Smeriglio, ho già avuto tanta pazienza, gliene chiedo ancora un'altra po', perché dobbiamo andare adesso a Francesco Rocca, presidente nazionale della Croce Rossa, perché anche con la Croce Rossa vorrei fare un punto della situazione sull'emergenza. Ho sentito Rocca in queste ultime ore da parte di molti suoi colleghi che presiedono altre organizzazioni come la sua, che hanno avuto il grande merito in questi giorni di darsi da fare, è veramente un eufemismo appunto in questa emergenza, e ho sentito dire che per esempio adesso non c'è più tanto bisogno di beni di prima necessità, perché lì ormai veramente l'intervento è stato massiccio, c'è tutto quello di cui c'è bisogno. Ho sentito un'emergenza o quantomeno un allarme sul tema dei farmaci. Mi fa lei un po' il punto della situazione sulle zone terremotate? Che cosa hanno bisogno le persone? C'è questa preoccupazione che adesso l'escursione termica da cui ai prossimi giorni comincerà ad essere un po' più forte per la notte, si teme l'arrivo della pioggia. Come procede il lavoro di Croce Rossa? Ma guardi, la generosità degli italiani, come sempre, insomma, è stata enorme, quindi ha fatto bene a ricordarlo. In questo momento, per quello che riguarda le donazioni in beni, non c'è necessità, non mi risulta questa carenza di farmaci. Col servizio sanitario abbiamo collaborato benissimo sin dall'inizio. Adesso è il momento di spostare da questa risposta massiccia che c'è stata veramente all'attenzione al bisogno della singola persona. Questa sarà l'attenzione della Croce Rossa e delle altre realtà impegnate sul campo. È ovvio che nelle prime ore si cerca di mettere in piedi le cucine da campo, si cerca di mettere in piedi i posti medici avanzati, si fanno arrivare gli aiuti, e adesso in queste ore stiamo creando i magazzini, stanno attivando le ludoteche, cioè si cerca di, per quale mi passi l'espressione, perché è un'espressione forte in questo contesto, cioè di normalizzare l'emergenza, cioè di creare, sì, tutte quelle condizioni perché si possa andare avanti guardando, lo ripeto, da questo momento in poi alla singola persona. E fortunatamente in questa grande tragedia i numeri sono numeri che ci consentono questo lavoro. La difficoltà, penso che lo avrete ricordato in più occasioni, è la viabilità, è l'accessibilità. Sì. È per questo anche che noi abbiamo dato un'altra raccomandazione, cioè quello che se non si è all'interno del sistema nazionale di protezione civile con un'organizzazione riconosciuta e che sta lavorando, di non recarsi spontaneamente, perché le macchine intralciano il traffico. Guardare la viabilità in questo momento è una delle cose fondamentali per essere veloci e pronti. Rocca, in quale area voi siete spiegati in maniera particolarmente forte come forze, come numero di rappresentanti di Croce Rossa? In quale area? Amatrice, Rietino, Ascoli, oppure non c'è un... Ma guardi, siamo presenti in tutte le aree, però diciamo in questo momento noi ad Amatrice ci stiamo prendendo cura con le nostre anche cucine da campo, quindi non c'è soltanto un lavoro sulla popolazione, ma c'è anche l'assistenza al soccorritore, quindi sostanzialmente stiamo anche provvedendo con le nostre cucine a fornire i pasti a tutto il sistema nazionale di protezione civile, quindi sono migliaia i pasti che vengono prodotti in questi giorni. Grazie a Francesco Rocca, presidente nazionale della Croce Rossa. Buona giornata. Buongiorno. Massimiliano Smeriglio, vengo a lei. Eccoci qua, vicepresidente della Giunta regionale del Lazio. Dal punto di vista delle inchieste giudiziarie, ci sembra appunto che il fronte rietino comincerà ad essere quello un po' più battuto nelle prossime ore. C'è, come dire, ci sono le considerazioni un po' più delicate da fare, perché a quanto pare a Rieti la procura ipotizza anche reato di disastro o colposo. Allora ci spiega intanto un po' qual è, dal punto di vista dell'attività che la Regione ha dovuto mettere in campo in queste ore, la situazione per quello che riguarda la vostra area, e poi cominceremo anche con un commento sull'attività giudiziaria. Assessore. Sì, intanto mi lasci dire che dalle prime ore siamo stati lì, il Presidente Zingaretti, dalle 7 del mattino, abbiamo trovato ovviamente una tragedia, però abbiamo trovato anche una parte consistente dello Stato, delle diverse articolazioni dello Stato coordinate dalla Protezione Civile nazionale e regionale che ha funzionato. Anche questa a me pare una notizia, nel senso che tutti hanno dato il meglio in questa situazione di prima emergenza, di scavo e di provare a mettere in salvaguardia quello che si poteva mettere in salvaguardia e di salvezza di vite umane. Ovviamente esiste, e mi pare non solo un atto dovuto, ma una necessità, un intervento della procura che passi rassegna sia, diciamo, eventuali responsabilità legate a patrimonio pubblico nelle sue diverse articolazioni e anche relativa al patrimonio privato, di substrati, di interventi che si sono succeduti nel corso dei decenni. Stiamo parlando di città, paesi consolidati che vengono da piante medievali, quindi insomma c'è un lavoro importante da fare e delle responsabilità eventuali da appurare. Spero che tutto questo avvenga il prima possibile, che sia appunto puntuale nella individuazione delle responsabilità e che però non distolga l'attenzione dalla gestione non solo dell'emergenza, ma appunto, lo diceva adesso Rocca, anche dalla stabilizzazione da un lato dell'emergenza e un primo ritorno alla normalità. Faccio un esempio banale: tra circa 15 giorni devono riaprire le scuole, quindi c'è una ricognizione, un intervento che col MIUR, col Ministero, con l'ufficio scolastico del Ministero si sta attivando, si è attivato in queste ore per garantire ai circa 300 ragazzi e ragazze dei due paesi colpiti nel lato Regione Lazio appunto di garantire nella tragedia, nella situazione assolutamente di difficoltà, però il riavvio delle attività scolastiche e contestualmente avviare anche una ricognizione con i tecnici, con il genio, sulla stabilità di tutte le strutture pubbliche, in particolare delle scuole, per la provincia di Rieti. Certo. Poi fatta questa prima fase... Visto che ha citato la parola scuola, Assessore, appunto, vuole farci un commento su questa polemica atroce che sta montando sulla modalità con cui è stata rifatta la scuola capranica di Amatrice e tutta una serie di responsabilità che a questo punto vengono attribuite al sindaco Pirozzi? Ma guardi, io sinceramente faccio fatica in generale a fare i processi politici o sommari sugli organi di informazione, questo proprio in generale. In particolare in questo momento mi sembra anche un atteggiamento profondamente sbagliato rispetto a un sindaco che dalle prime ore, dai primi minuti del sisma sta sul campo, ha tenuto insieme quella comunità, gli ha dato una prospettiva, si è assunto delle responsabilità. Io penso che è normale su un bando del 2004, una inaugurazione del 2012 che era legata al miglioramento sismico di una parte della scuola, se quella parte della scuola viene giù è giusto, doveroso e impellente l'intervento della magistratura per appunto appurare le responsabilità, che possono essere politiche ma possono essere anche tecniche di varia natura e che comunque vedremo nel processo. Io oggi mi sento di stare accanto ai cittadini di Amatrice, al loro sindaco, perché appunto al di là dei diversi modelli esiste una filosofia che dobbiamo mettere in campo, cioè che si ricostruisce insieme con la partecipazione, con la cura delle identità, con l'ascolto delle comunità locali, cioè quello che in alcuni casi non è stato fatto negli ultimi sismi e che in Italia, dovrà fare ha prodotto tragedie, e in altri casi è stato fatto. Quindi io penso che l'approccio, però su questo sono moderatamente ottimista, perché tutto quello che leggo dal governo ai tecnici, agli architetti, ai commentatori va in questa direzione. Direi di tenere questa linea della partecipazione delle identità locali, del ripristino dei paesi così com'erano. Questo a me parrebbe già un grande passo in avanti, e soprattutto di far decidere le comunità locali con i loro sindaci, non fare interventi dall'alto che puzzano di bruciato lontano un miglio. Quindi condivide insomma questa impostazione che sulla ricostruzione il governo sta provando a dare, a parte la scelta appunto del commissario per la ricostruzione, però il metodo che si pensa di seguire è quello di costituire un comitato di sindaci, e anche si parla sui giornali stamattina, Assessore Smeriglio, di una white list di imprese e lavori, quindi di rendere tutto estremamente trasparente. Insomma, in queste circostanze la parola trasparenza è sempre quella più gettonata, mi pare che a questo punto un'altra direzione non si possa più assolutamente prendere. Guarda, io non sono personalmente un fan del governo Renzi, penso che in questa fase le cose stanno andando nella direzione giusta, appunto il comitato dei sindaci, un commissario non regionale, quindi frammentando l'intervento da 3-4 regioni colpite, ma un commissario che centralizzi in qualche modo e quindi dia più forza alle risorse che arrivano, quindi però dentro una maggiore centralizzazione che coinvolge l'intera area, un ruolo fondamentale delle regioni per le loro competenze, ovviamente dei comuni per le competenze di prossimità più importanti. Questo secondo me è veramente l'approccio giusto. Poi vedremo il nome del commissario, non penso che è indifferente, francamente. Le biografie contano, le esperienze contano, quindi vedremo se il Consiglio dei Ministri prossimo nomina. nominerà chi e poi faremo una valutazione. Credo che lo sapremo proprio in un paio di giorni, perché Errani, credo che mercoledì vada nelle zone colpite dal sisma, mi sembra un'accettazione in diretta dell'incarico. Un'esperienza positiva. In una zona diversa, perché là lo abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, naturalmente la priorità fu ovviamente tutto ciò che riguarda la popolazione, le case, ma c'era da rimettere in piedi la filiera delle imprese biomedicali ad alta tecnologia. Qua abbiamo delle considerazioni diverse da fare, detto questo poi sono delle emergenze da gestire con la stessa urgenza. Io ringrazio i nostri due ospiti di stamattina, Angelo Sciapichetti, assessore alla protezione civile delle Marche, e Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Giunta regionale del Lazio. Un minuto di tempo a Daniele Morini, collega che pure in questi giorni ha perlustrato in lungo e in largo le zone colpite dal terremoto con una particolare insistenza al versante marchigiano. Daniele, buongiorno. Resoconto di questa mattina, un riassunto della situazione sulla base dei tuoi giri, insomma, in queste ore. Sì. Ecco, velocissimamente siamo passati dal clima del cordoglio dei funerali sabato mattina ad Ascoli, purtroppo di nuovo al fronte ricerca delle persone disperse. Questa notte intorno all'una, forse lo avrete già detto, era stato ritrovato all'hotel Roma il corpo di una donna, se ne cercano altri due perché appunto si aveva notizia di tre corpi più o meno in una stessa zona, mentre ieri, a proposito di Hotel Roma e di funerali, sono stati celebrati quelli di Barbara Marinelli e Matteo Gianlorenzi, 42 e 44 anni, il vescovo di Orvieto, perché lì sono stati celebrati appunto i funerali, visto che le due persone erano originarie di quella zona. Li ha celebrati il vescovo Monsignor Benedetto Tuzia, erano ancora anche loro all'hotel Roma di Amatrice. E per quanto riguarda l'ultimo aggiornamento, sempre i funerali, proprio ieri è terminato il trasferimento di un centinaio di salme all'aeroporto di Rieti, si trovano in un hangar dell'aeroporto del Reatino, appunto messo a disposizione dall'ENAC proprio sabato mattina, partecipando ai funerali. Poi avevamo incrociato ad Ascoli il vescovo di Rieti, Monsignor Domenico Pompili, che ci aveva detto che si sta preparando tutto per la giornata di domani, appunto quella dei funerali delle vittime reatine. Ecco, per ora non ci sono altre notizie. Grazie Daniele, buon lavoro. Noi ci fermiamo, abbiamo adesso un po' di pubblicità, poi ritorniamo a parlare dell'altra emergenza del momento, ovviamente molto più ridimensionata per quello che riguarda i numeri, ma il base jumping continua a mietere vittime e ieri abbiamo avuto la terza. Ma cos'è quest'estate? Se vuoi il massimo, devi essere pronta a pagare il massimo. Deve essere bello morire facendo quello che ami. Io voglio morire così. Cristo, io non voglio vivere fino a 30 anni. Deve essere bello morire facendo quello che si ama, chissà se la pensavano davvero così. Uli Emanuele, famoso base jumper altoatesino, morto il 18 agosto in un incidente in Austria. Si trovava sulle Alpi al confine con la Svizzera per registrare alcune riprese dei suoi voli spettacolari ed era diventato famoso per il volo con la tuta alare attraverso un anello di fuoco e una cruna d'ago formata da una roccia. Dopo 4 giorni la stessa sorte tocca ad Alexander Polli, 31 anni, morto sopra Chamonix. E neanche a dirlo, ieri la terza vittima, addirittura è morto in diretta a Facebook, Armin Schmider, base jumper italiano, 28 anni, di Merano, precipitato durante un volo sempre con la tuta alare nel canton Berna. E ha suscitato grande attenzione questa morte in diretta, perché prima di saltare nel vuoto, l'uomo ha impugnato, perché le immagini lo documentano, il suo smartphone, ha avviato il collegamento dicendo davanti alla fotocamera: oggi si vola con me. Ha messo il telefono in tasca e poi non si è visto più nulla, si è ascoltato soltanto il suono del vento e poi l'urlo, il rumore di una caduta, il silenzio seguito, raccontano le agenzie, dal suono dei campanacci di alcuni bovini al pascolo nella zona. Ci siamo interrogati su queste tragedie per cercare di capire che cosa si agita nel corpo e nella testa di un atleta, perché sono dei veri e propri atleti che vogliono cimentarsi in pratiche sportive come questa. Che cos'è il base jumping? Perché io vi devo dire la verità, ne avevo sentito parlare ben poco e mi sono dovuta drammaticamente documentare proprio in questi ultimi giorni. Allora abbiamo voluto farlo con uno dei massimi esperti di questo sport, di questa pratica, perché poi definirlo sport non è neanche del tutto corretto. Abbiamo raggiunto Maurizio Di Palma della Brento Base School, peraltro molto vicino a tutte le vittime che sono scomparse appunto nelle tragedie degli ultimi giorni. Allora sentite che cosa abbiamo scoperto sul base jumping. Il BASE sta per un acronimo, è un acronimo inglese che va per Building, Antenna, Spurn and Earth. Sono le quattro principali categorie di oggetti dai quali un base jumper salta, presente dalle building, dai palazzi, dalle antenne, dai ponti o dalle pareti. Ovviamente il base jumper non disdegna nessun altro tipo di, anche tutti gli altri tipi di strutture naturali o create dall'uomo che abbiano delle caratteristiche tali per poter essere saltate. Siamo dei paracadutisti senza aereo. La tua specialità esattamente qual è? No, io sono un base jumper a 360 gradi, nel senso che io salto in tutti i tipi di assetti possibili nel base, quindi con la tutelare, senza tutelare, salti bassi, ultrabassi, manovre aeree. Quindi non è detto che ci si debba specializzare in una delle lettere dell'acronimo, in sostanza? No, beh, la lettera dell'acronimo è un altro discorso, nel senso che si salta da quelli sono gli oggetti dal quale si salta, poi si può saltare con una tutelare se è un palazzo di 600 metri magari, o se no principalmente con la tutelare si salta per esempio dalle montagne, però quello lì sono le basi dalle quali noi saltiamo, poi quello che si fa nel salto prende diciamo la disciplina, prende il nome della disciplina, se si fanno degli aerei, se sono delle manovre aeree, se si fanno dei voli con la tutelare, del wingsuit fly, se si fanno dei voli radenti alle montagne è un volo di proximity, tutto lì. Maurizio, tu prima di tutto sei un paracadutista, giusto? Tutti i base jumper sono prima di tutto paracadutisti. Non si può pensare di avvicinarsi al base senza avere un background di paracadutismo con una buona esperienza. Quanti salti base hai fatto? Allo stato attuale ho fatto più di 3.750 salti di base. Qual è stata la tua avventura più, non voglio dire spericolata perché magari a voi questo termine non piace, ma magari più rischiosa, più estrema? Ma di per sé, nel senso che non ho mai magari per te un'impresa. Sono tutte normali, no? Se le dovessimo guardare ecco, per noi anche il salto da un metro ci sembra particolare. A me piace girare il mondo e saltare in basi sempre nuove, che siano palazzi, montagne, strutture, cose particolari, cioè ci sono tantissime avventure, tantissime belle esperienze che non sono solo legate al salto in sé, ma anche quello che c'è prima, perché quando vai a saltare per esempio la cascata più alta del mondo in Venezuela, sai, fai un salto di 900 metri da una cascata nella giungla, ma quello che è bello non è solo il salto che dura 15 secondi da questa altezza, è tutto quello che c'è prima, quindi quei 60 km a piedi nella giungla con i locali, i 4 giorni di marcia in mezzo alla natura, cioè è tutto quello che c'è dietro il base, non è il salto in sé. Io quello che dico sempre, il salto in sé è l'orgasmo finale, ma tutto quello che c'è dietro è l'avventura. E con questa definizione sicuramente avremo contribuito oggi ad avvicinare un sacco di persone a questa che possiamo definire come, Maurizio, una disciplina sportiva, un modo per fare delle esperienze particolarmente avvincenti, qualcosa che vi dà un'emozione che un altro sport sicuramente non potrebbe dare. Come la definiresti tu? Ma secondo me il base non si può mettere incasellare nella categoria sport, perché è una cosa molto particolare. Anche se poi la prestanza fisica che è necessaria credo che non sia indifferente. Dipende sempre anche dal tipo di salto che si va a fare. Ovviamente se si va a fare delle marce di ore in montagna un buon allenamento non guasta. Se c'è da prendere un ascensore per andare su un palazzo non serve poi questa grossa preparazione, tutto lì. Però incasellarlo nella categoria sport è un po' riduttivo, perché chi fa base secondo me entra proprio vero e proprio in uno stile di vita, perché diventa tutto base, e quindi è una cosa molto particolare. Voglio proprio sottolineare il fatto che sono tutti paracadutisti esperti quelli che si avvicinano a questo tipo di attività, è una nicchia molto piccola, uno sport di nicchia della nicchia, perché già per fare paracadutismo comunque i paracadutisti non sono molti nel mondo, quindi è uno sport di nicchia. Il base è uno sport di nicchia nella nicchia, quindi parliamo di circa 2.000-3.000 praticanti in tutto il mondo, sono numeri veramente irrisori per qualsiasi tipo di attività. E infatti la mia prossima domanda sarebbe stata: chi frequenta i tuoi corsi alla Brento Base School, quindi in primo luogo già persone dal punto di vista fisico particolarmente preparate a partire dal paracadutista? Noi assolutamente chi decide di intraprendere questa attività, i corsi sono aperti solo a paracadutisti con un minimo di 200-250 salti, con un'attitudine mentale propensa a questo tipo di attività e che appunto decidono di volersi avvicinare per gradi a questo tipo di disciplina. Cosa vuol dire avere un'attitudine mentale predisposta a questa attività? principalmente ad avere tempi di reazione allenati, a saper reagire e a pensare in tempi molto brevi e in spazi limitati, perché comunque sia entro brevi secondi bisogna essere in grado di prendere una decisione. Io dico sempre, quando si salta di base bisogna essere sempre in grado di agire mentre si pensa e pensare mentre si agisce. Quindi è uno che non è in grado di gestire questa dose elevata di stress, sicuramente sta scegliendo l'attività sbagliata. Certo. Oltre alla licenza di paracadutismo come prerequisiti fondamentali per accedere ai tuoi corsi, quali altri elementi è necessario rispettare, Maurizio? Beh, principalmente la base di esperienza. Io quello che voglio vedere è la base di esperienza e comunque conoscere anche il soggetto che vuole venire a fare il corso, diciamo, comunque intraprendere questo percorso. Le teste calde noi non ci interessano, ci interessa gente con la testa lucida, belli motivati e soprattutto convinti e decisi sulle attività che andranno a intraprendere, perché comunque non è un gioco. Naturalmente non posso non farti una domanda anche sulle ultime tragedie dalle quali siamo partiti, quelle che hanno visto come loro, malgrado appunto, protagonisti Uli Emanuele ed Alexander Polli. Prima di questo però, Maurizio, ti volevo chiedere appunto, sappiamo anche che probabilmente c'è chi permette in Italia, non so se sono dei club amatoriali o che cos'altro, di fare magari non il base jumping ma qualche cosa di estremo, anche se non si hanno magari delle preparazioni adeguate, scuole forse un po' leggere, basta a volte che si firmi una liberatoria per permettere a delle persone non particolarmente preparate né fisicamente né mentalmente, come dicevi tu, a cimentarsi appunto in esperienze di questo tipo. E esiste davvero questo problema, se vogliamo, un po' in Italia? Voi ne siete a conoscenza? Come possiamo anche mettere un po' sull'attenti le persone che sono affascinate magari da fare un'esperienza di questo tipo e si avventurano verso il primo club che trovano, la prima organizzazione, la prima società nella quale si imbattono, però magari non riescono anche a percepire se ci sono dietro dei preparatori adeguati appunto a seguirti in un'avventura di questo tipo? Allora, innanzitutto non ci sono dei club o delle istituzioni, diciamo, riconosciute per quanto riguarda il base, sia in Italia che nel mondo. È tutta una cosa molto, molto borderline, perché proprio anche il nostro tipo di attività in sé non è riconosciuta a livello sportivo, quindi è un po' come se, tra virgolette, non esistiamo. Improvvisare il base, ci sono delle realtà magari di persone che trasmettono a persone con magari un'esperienza non adeguata, però sono veramente sono veramente casi isolati, per cui diciamo che questo non è il grosso problema, anche perché è una comunità talmente piccola che ci si conosce tutti, quindi se uno vuole fare le cose fatte bene sa come fare per fare le cose fatte bene, se non vuole fare le cose fatte bene ovviamente ci sono delle scappatoie, però già di suo sa che è tutto a suo rischio e pericolo, però veramente parliamo di numeri talmente ridotti che non è un grossissimo problema dal punto di vista. Un mondo talmente piccolo, dicevi, quindi tu immagino conoscessi Uli Emanuele ed Alexander Polli. È una, io dico sempre, è una famiglia allargata, ci si conosce tutti e siamo talmente pochi e i punti di salto più noti, dove in uno di questi io vivo sotto, passano tutti i base jump, per cui ci si conosce tutti. Uli era stato mio allievo nel 2007, aveva iniziato con me con un corso proprio agli inizi, parliamo di quasi 9 anni fa, aveva fatto una bellissima carriera e era arrivato ai più alti livelli. Alexander era un amico, ci si conosceva appunto, passava spesso dalla nostra parte a saltare, si era saltato spesso insieme. Era, insomma, come dicevo, siamo una piccola comunità e quindi ci si conosce sempre, quando qualcuno ha un incidente è sempre un amico. Non deve essere stato facile per te allora ricevere una dietro l'altra due notizie di questo tipo? Purtroppo questo mese qua è stato un mese molto impegnativo perché alla fine, al di là delle ultime notizie, ci sono stati altre fatality. Questo mese è stato il mese più nero della storia del base, della storia, perché si parla di 14 fatalità nel giro di un mese in tutto il mondo e in effetti penso che ci sia un attimino da parte della comunità del base internazionale da fermarsi un attimo a pensare e un attimino tirare in barca, dire aspetta, dove stiamo andando, fare un attimo tutti un esame di coscienza. Tu le hai definite fatalità, si sono spinti un po' troppo oltre Polli ed Emanuele, oppure appunto circoscriviamo queste due tragedie al mondo delle fatalità, insomma il caso ha voluto, il destino ha voluto che si verificassero a pochissima distanza di tempo l'uno dall'altro? Beh, questo bisognerebbe analizzare l'aspetto tecnico. Io purtroppo non ho dati tecnici, non essendo stato sul posto, da definire il tipo di incidente che è successo. Sono ancora delle indagini in corso e quindi non so esattamente cosa sia potuto accadere. Sicuramente sappiamo perfettamente che la maggior parte delle volte, se non quasi tutte le volte, purtroppo i nostri tipi di errori, essendo un'attività molto legata alla persona, sono errori umani. E quindi sappiamo perfettamente che se commettiamo un errore e quell'errore è un po' grave, la paghiamo col prezzo più alto. Certo. Però non posso sbilanciarmi in merito perché non ho materiale in merito. Maurizio, le tue prossime avventure quali saranno? Se così possiamo chiamarle, i tuoi prossimi lanci? Adesso siamo in piena estate, quindi siamo in piena attività, siamo in piena stagione. Io adesso il primo di settembre parto per la Cina, abbiamo un progetto in Cina fino all'11, poi rientro, abbiamo una decina di giorni in Francia a fare delle riprese in Francia e dopodiché c'è una gara in Spagna, insomma un calendario bello fitto. Ricordando Uli ed Alexander, tu il tuo prossimo lancio immagino, o perlomeno così te lo suggeriamo noi, di dedicarlo a loro, ma detto questo, come dire, lo farai in maniera diversa, con una consapevolezza diversa, con un'attenzione diversa? L'attenzione verso i nostri salti non muta mai, è sempre, nel senso che è sempre al massimo dell'attenzione. Sicuramente avremo degli occhi in più lassù che ci controllano e noi siamo tutti perfettamente consapevoli del gioco che giochiamo e siamo sereni nell'affrontare i rischi che comporta e quello che è il prezzo da pagare se qualcosa va male. Questo non abbiamo assolutamente dubbi. Nessuno pensa che si affronti uno sport come questo a, diciamo, di qui all'acqua di rose, o che siamo immortali o quello più bravo non può avere incidenti. Non è vero, siamo tutti a rischi. Dal momento che uno accetta questi tipi di rischi e quello che comporta, allora puoi fare questo sport, altrimenti è meglio lasciar perdere. Purtroppo questa è la realtà, inutile stare lì. Siamo umani, possiamo sbagliare e se sbagliamo il prezzo che paghiamo è quello più alto, non si scappa. Ma cos'è quest'estate? Ed è anche l'estate del base jumping, come avete sentito con poco fa l'intervista che abbiamo realizzato a Maurizio Di Palma della Brento Base School. Conosceva molto bene Uli, Emanuele ed Alexander Polli, appunto, che sono state le prime due vittime di quest'estate tremenda per quello che riguarda lo sport, e poi nel weekend è arrivato anche il terzo. Abbiamo voluto un po' interrogarci su cosa si prova facendo questi sport estremi. Con Maurizio Di Palma ne abbiamo parlato a lungo, stamattina abbiamo interpellato anche chi ne fa un altro, non fa base jumper ma il biker estremo, freestyler estremo, anche se forse molti di noi lo riconoscono per di più per le sue presenze televisive. Ringrazio e saluto per essere con noi questa mattina Vittorio Brumotti. Buongiorno Vittorio. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Allora, tra l'altro tu un record dietro l'altro anche con le tue prestazioni con la tua bicicletta. Io mi sono molto divertita a guardare il tuo sito, Vittorio, perché ho letto che la prima cosa che balza all'occhio è che tu da tutta la vita te la porti dietro e hai modificato quasi tutta la tua vita per poterla portare sempre con te in auto, in ogni casa dove ti capitasse appunto di abitare, quindi una vita a misura di bicicletta, direi. Però ti vorrei chiedere un commento invece sulle notizie sulle quali ci siamo soffermati questa mattina. Ma secondo te che cosa si agita nell'anima di chi si cimenta in una tipologia appunto di pratica come quella? Abbiamo detto con Maurizio Di Palma prima che non lo chiamano sport, ma insomma comunque bisogna avere una prestanza fisica non indifferente. Che cosa hai pensato di fronte a queste tragedie? Allora, succede che intanto parte dalla famiglia il problema, nel senso che io ad esempio con i miei genitori, con la mia fidanzata, con tutti, non ti dico che li preparo ogni giorno a quello che mi può accadere, proprio perché faccio un lavoro molto particolare. Però loro sanno, i miei familiari, che io vivo solo se faccio quello. Nel momento che per 2 o 3 giorni non faccio l'estremo, come si dice, divento apatico, mi spengo. E per noi freestyler, per persone che vivono di adrenalina, solo chi fa adrenalina ci può capire. Perché è brutta da dire, ma quasi il nostro sogno è, se proprio deve accadere, durante il nostro lavoro, capisci? Siamo persone proprio nate così, per gli altri nate sbagliate, ma per altre persone stiamo magari se fate attenzione naturalmente ci mancherebbe altro, no? Il massimo rispetto. Ci ha colpito peraltro, Vittorio, del caso del terzo giovane morto appunto proprio 2 giorni fa, del fatto che si fosse portato, adesso magari questo anche con l'altro ospite lo commento di aspetto, il suo smartphone, e che la sua prima idea era stata quella di ovviamente documentare il volo che si sarebbe apprestato appunto a fare. Adesso ci dobbiamo aggiungere, oltre già a tutti quanti i rischi che affrontate con le vostre avventure, anche questo. Tu sei attento da questo punto di vista, o ormai anche tu vai in giro con lo smartphone pronto a documentare ogni avventura? Beh, no, usiamo tutti una telecamera speciale, diciamo, e poi dopo passiamo via wifi le immagini che catturiamo. Cioè, portarsi dietro lo smartphone mentre fai una prestazione, soprattutto, non so, l'oro ad alta velocità, mi sembra impossibile poterlo tirar fuori, fare un selfie, per dire. O io mentre vado in bici usiamo questa telecamerina messa sulla testa, o nel mio caso io la tengo tra i denti addirittura, e poi dopo spariamo via l'immagine. Però bisogna stare sempre sul pezzo, ripeto, essere estremi. Anche il suo vantaggio è che magari facciamo dei sacrifici come diete, non beviamo, non fumiamo, siamo molto concentrati sul pezzo. Molta concentrazione, mi pare la parola d'ordine assoluta. Certo, certo. Per dirti una cavolata, stanotte ero in Austria, sotto l'hotel è arrivata una macchina che ha sfondato in un rettilineo, in un centro abitato, da fermo, ha sfondato l'hotel, è entrato dentro l'hotel. Per dirti, più pericoloso magari due deficienti al volante ubriachi, che erano due ragazzi ubriachi, che magari chi vive d'estremo e sta in concentrazione tutto il giorno. Vittorio, per quale altro record da Guinness ti stai preparando? Perché vedo che qua la tua scaletta di marcia è ferma al maggio, l'11 maggio del 2014. Abbiamo qualche altro tassello da aggiungere al più presto? Guarda, ormai il mio record sarà spopolare in rete, siccome già ogni giorno è un record che utilizzo una bici da corsa, non uso più una bici da trial, una bici da freestyle, e sto lavorando tanto negli Stati Uniti, e chi mi segue nel web vede che sto facendo diverse milionate di visualizzazioni. Ho preparato il backflip, il frontflip, è uscito in un video Road Bike Freestyle 2, chi mi segue, e adesso sto preparando il terzo, che lo girerò a Los Angeles a brevissimo, e ormai l'obiettivo è ogni giorno fare un record, ok, ufficializzarlo, ma cercare di essere online il più possibile. Grazie a Vittorio Brumotti per essere stato con noi. L'ultimo commento su queste vicende lo voglio assegnare ad un altro amico di Radio 24, non solo, direi che circola molto spesso nei nostri studi, perché è anche un nostro conduttore oltre che autore, Federico Taddia. Federico, buongiorno. Ciao, buona giornata a voi. Sono rimasti 3 minuti di tempo, ma non potevo non chiamarti perché tu proprio nei giorni scorsi sulla stampa hai dedicato un lungo commento su queste vicende, sfidarsi, sentirsi vivi sfidando il pericolo. Che cosa ti suggeriscono queste vicende? Ma guarda, una lunga riflessione, perché oltre ai Brumotti, oltre ai professionisti del rischio, ci sono anche quelli che è un po' così, come provocazione, chiamato gli spericolati della domenica, ovvero sono sempre di più le persone che hanno una vita cosiddetta normale dal lunedì al sabato, e poi la domenica invece si cimentano in queste attività estreme dove serve concentrazione, serve allenamento, serve preparazione, e non la si ha indossando una tutelare o senza arrivare alla tutelare, comunque cimentandosi in attività solo la domenica. E qui abbiamo riflettuto un po' sul perché, cosa si cerca, questa ossessione di spostare sempre di più l'asticella che ti fa perdere completamente il senso del limite. E io un po' la colpa, al di là di questa voglia di adrenalina che abbiamo sentito dire più volte, questa voglia di sentirsi vivi, c'è un po' la presunzione di poter padroneggiare la natura, che è questa il grande rischio. Ci sono nuove tecnologie, ci sono persone che vedi più brave di te, ci sono materiali che ti permettono di fare cose che fino a pochi anni fa non potevi fare, e quindi ti senti veramente un supereroe. E per andare a caccia di quel selfie, di quel qualcosa da condividere assolutamente e subito e immediatamente con gli amici, con i colleghi, con il giro del quartiere, rischi troppo e metti in gioco la cosa più preziosa. Il vorrei ma non posto, che è stato il nostro grande tormentone di quest'estate, ma è una canzone che racconta delle grandissime verità. Federico, grazie anche a te per essere stato con noi. Lo ricordo, ha scritto sulla stampa nei giorni scorsi un commento sulla morte dei base jumping, sentirsi vivi sfidando aumentando il pericolo, un salto sempre più alto, un decollo sempre più difficile, una planata sempre più complicata, un paracadute da aprire sempre un attimo dopo, la realizzazione di sé non passa più, dice Federico, solo per le categorie ordinarie quali la famiglia, il lavoro, il reddito, gli amici, il proprio contesto sociale e relazionale, si ha bisogno di altro. In una società dove non basta essere se stessi per essere qualcuno, ma per essere qualcuno bisogna dimostrare di essere sempre un po' più degli altri, e quindi gli sport estremi diventano un palco per mettere in scena le proprie ossessioni. Grazie a Federico Taddia. Stiamo terminando questa parte, questa prima puntata della settimana di Ma che cos'è quest'estate. Grazie a Paolo Corleoni in regia, Silvi Boccaletti e Massimiliano Lollis in collaborazione in redazione. È tutto da Deborah Rosciani, buona giornata domattina.